Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, normalmente io non parlo di libri che raccolgono articoli già pubblicati sui giornali, ma questa sera faccio un'eccezione per un libro che ci aiuta a catalogare i problemi delle istituzioni italiane e dunque a ragionare sulle nostre debolezze, sulle sfide che ci aspettano e sugli esiti che vogliamo costruire. E lo facciamo con Sabino Cassese, un grande giurista, docente in molte università, ex ministro, ex giudice della Corte Costituzionale, che ci aiuta a ragionare dello Stato, un'espressione, questa di Machiavelli, che è contenuta nel libro Il Buon Governo, l'età dei doveri, pubblicato da Mondadori, 280 pagine, 19 euro. Questo libro raccoglie, amplia e aggiorna appunto dei dialoghi che sono stati pubblicati principalmente sul Foglio, nei quali dialoghi Cassese affronta molti temi che oggi agitano la vita politica e non soltanto in Italia. Cassese parla infatti di globalizzazione e sovranismo, di crisi dello Stato, di Europa, di Costituzione, di funzionamento della democrazia, di istituzioni, di governo, ma anche dello scontro tra elite e popolo e della venatura rancorosa che ha preso molto spesso la nostra società. E l'autore di questo elenca anche i motivi, parla di impressione di impotenza rispetto a ciò che viene da fuori, cioè il progresso tecnico, la crisi economica, l'immigrazione, l'apertura dei mercati, parla di disorientamento, incertezza, paura, rabbia prodotti dalla perdita del controllo delle frontiere, non solo quelle fisiche, dall'invasione, anche quella dei costumi, dalla supremazia assunta da forze esterni in casa propria, dall'indebolimento dell'autorità nazionale, e indica l'esigenza di costruire una idea di società basata sul binomio diritti-doveri. Scrive infatti: la Costituzione non declina i diritti da soli, ma in congiunzione con i doveri, per cui non si possono rivendicare i diritti senza nello stesso tempo ricordarsi dei corrispondenti doveri, qualcosa che un terzo dell'elettorato, quello che si astiene, dimentica. La lunga introduzione di Cassese coordina questi vari aspetti partendo dalla presentazione di cinque caratteristiche peculiari che dominano l'assetto istituzionale, e ve li riassumo: la sostituzione delle decisioni fondate sulla forza del dibattito della ragione con quelle fondate sulla forza dei numeri, la tendenza a una nuova concentrazione di poteri al vertice, lo svuotamento del Parlamento divenuto organo di registrazione di decisioni prese altrove, talora neppure dal governo, la prevalenza di temi e problemi immediati e urgenti su quelli importanti e strutturali, dal predominio della politica sulle politiche, degli schieramenti sugli orientamenti e sugli obiettivi, e infine la mancanza di organi di correzione delle politiche governative, e affronta in particolare alcuni aspetti di cui adesso parliamo con l'autore. Buonasera a Sabino Cassese. Buonasera. Sabino Cassese, uno dei temi di cui si sta discutendo molto anche per gli interventi legislativi di cui abbiamo appreso nelle scorse settimane è la burocrazia. Se ne è parlato tantissimo in questi ultimi mesi. Lei nel suo libro ne parla ovviamente, spiega l'origine dei mali e conclude però che è anche un pochino troppo comodo prendersela sempre con la burocrazia. Le fanno la domanda: ma è corretto attribuire tutte le colpe alla burocrazia? E lei dice: giusta domanda. Ecco, perché? Quali sono i pro e i contro della burocrazia? Che cosa si può salvare della burocrazia? Ma guardi, in questo libro sul buon governo io sostanzialmente faccio da un lato una difesa, dall'altro una critica della burocrazia. Perché una difesa? Perché vengono attribuite alla burocrazia anche degli errori e delle scelte sbagliate fatte dal quello che chiamiamo legislatore, cioè governo e Parlamento, i quali facendo, scrivendo e approvando poi delle leggi sempre più analitiche e confuse, creano dei problemi di cui la burocrazia soffre a sua volta. Quindi non è responsabile la burocrazia, ma è responsabile chi viene prima, cioè quelli che fanno queste leggi. E poi faccio una critica della burocrazia, perché a sua volta la burocrazia ci aggiunge del suo, come si suol dire, e cioè spesso è inerte, poco attiva, poco attenta al risultato, più attenta alle procedure, più alla forma che alla sostanza, spesso poco motivata, intimorita dall'intervento delle procure, e quindi diciamo si è creato un equilibrio che è difficile rompere, perché bisognerebbe agire su due fronti, da un lato governo e Parlamento e dall'altro burocrazia. E poco fa ho ricordato i cinque fattori che secondo lei dominano, caratterizzano l'attuale assetto istituzionale. Mi ha molto colpito il primo, la sostituzione delle decisioni fondate sulla forza del dibattito e della ragione con quelle fondate sulla forza dei numeri. Questa è una trasformazione che non dipende dalla politica, dipende dalla società. Dipende dalla società, ma fondamentalmente è la politica che introduce, è l'offerta politica, come dicono i politologi. È l'offerta politica che si presenta in questo modo, cioè abbiamo sempre di più un'offerta politica che consiste in slogan, dichiarazioni, piuttosto che in ragionamenti, tentativi di convincere, analisi, discussione, dialogo, e quindi da questa offerta politica poi dipende anche il modo in cui la società reagisce, e reagisce in che modo, come si reagisce sempre quando si è in presenza di uno slogan, mi piace o non mi piace, no? Ecco, e quindi ci sono i like o i non like. E a questo danno un grande contributo i mezzi di comunicazione, la cito, i mezzi di comunicazione di massa che inseguono l'opinione pubblica piuttosto che cercare di istruirla, quando non sono esclusivamente un mezzo di intrattenimento. Ecco, questa corruzione, questo cambiamento dei mezzi di comunicazione, che conseguenze può avere anche sulla formazione dell'opinione pubblica? Guardi, intanto i mezzi di informazione purtroppo fanno da megafono, per così dire, a questa abitudine allo slogan degli uomini politici. Invece di rivolgersi agli stessi uomini politici cercando di chiedere a loro di fare delle proposte più articolate, cioè invece di enunciare vogliamo semplificare, cercare di spiegare che cosa bisogna semplificare, come bisogna semplificare e perché bisogna semplificare. E poi naturalmente c'è l'interazione dei media in generale con l'opinione pubblica. Va detto però che nell'opinione pubblica c'è anche una reazione a tutto questo, che io vedo montare sempre di più nelle mille iniziative che ci sono in Italia per, che le posso dire, i festival della filosofia, della storia, dell'economia, e poi le presentazioni dei libri e poi le conferenze che sono richieste da alcuni intellettuali. E tutto questo è rappresentativo di una domanda che c'è nella nostra società, di qualcuno che vada lì meno a spiegare dei convincimenti e più a cercare di ragionare per far formare dei convincimenti nei destinatari, ma in modo che i destinatari siano parte attiva nel formarsi di un'opinione, nel giungere a delle conclusioni, piuttosto che dei puri recettori passivi, diciamo, di questi slogan che arrivano dal mondo della politica. Nelle interviste c'è a un certo punto il suo intervistatore che manifesta quasi sorpresa, perché lei dà dei sovranisti un giudizio non del tutto negativo, dice che si stanno in qualche misura organizzando su una rete sovranazionale. Che cosa può rappresentare questo fenomeno? Intanto, se mi consente, faccio un passo indietro. In questo libro l'intervistatore e l'intervistato sono la stessa persona, sì, certo. Perché questo è come spiego a un certo punto, lei l'ha visto, come spiego a un certo punto, segue un po' il modello dialogico di tanta parte della cultura mondiale, dal 300 ad oggi, che ha scelto questo modo di presentare il pensiero, diciamo. Ecco, io trovo che qualche volta i sovranisti diventano globalizzatori. Uno degli esempi, per esempio, è quello del Bannon, che a un certo punto pensava di creare una rete globale dei sovranisti. Ora, un sovranista non dovrebbe creare una rete globale, perché questa è una contraddizione ad iecto, insomma, un ossimoro. Cioè, sei contro la globalizzazione e per la sovranità dello Stato, non puoi pensare di creare una cosa che invece è globale. Oppure quando qualche ministro italiano che si opponeva agli interventi dell'Europa dicendo che l'Europa non era abbastanza attiva e quindi in sostanza chiedeva più Europa e non meno Europa, dicendo di voler chiedere meno Europa. Ecco, cerco nel libro di cogliere queste contraddizioni anche per far capire una cosa che è molto semplice, cioè che non è vero che più Stato vuol dire meno globalizzazione o più globalizzazione vuol dire meno Stato, perché in realtà Stato e globalizzazione in qualche modo crescono contemporaneamente e si rafforzano contemporaneamente, e quindi come dire, è una di quelle situazioni in cui gli economisti dicono win-win, cioè che non c'è nessun perdente e ci sono due vincitori. Grazie a Sabino Cassese, autore de Il Buon Governo. Buona serata. Buonasera. Sull'inestricabile rapporto tra diritti e doveri, Cassese cita a un certo punto i lavori di un altro studioso, Alessandro Barbano, di cui esce un libro dal titolo ambizioso, che va anch'esso nella direzione di quella segnalata da Cassese. Il titolo è La visione, una proposta politica per cambiare l'Italia, pubblicato da Mondadori, 112 pagine, 17 euro. Anche questo è un libro in difesa della politica che il coronavirus ha contribuito a indebolire ulteriormente dopo gli attacchi del populismo. La pandemia non ha corrotto il meccanismo democratico, Ungheria a parte, ma ha certamente messo in luce in molti paesi la differenza tra due possibili approcci alternativi che Barbano indica: da una parte l'isolamento nazionalista, dall'altra la solidarietà globale. E proprio di questo l'Europa ha saputo dare prova a superare questa dicotomia. Barbano esamina la situazione politica italiana, la mancanza di un'offerta politica di centro, denuncia efficacemente come spesso l'informazione nel nostro paese agisca passivamente da megafono, contribuendo a produrre un'ipertrofia di rappresentazioni politiche in cui prevale, scrive, un tratto contrappositivo permanente, non più collegabile a fatti giornalisticamente rilevanti, ma frutto di un effetto di trascinamento. E parla anche della confusione identitaria che rischia di far imboccare a destra come a sinistra la strada sbagliata, quello che lui chiama dello statalismo distributivo. E allora c'è bisogno di un nuovo riformismo, conclude Barbano, che recuperi il valore della delega e richiami la consapevolezza della complessità delle riforme da attuare. E qui si parla di giustizia anche e del gravissimo attentato rappresentato dalle nuove norme sulla prescrizione di scuola, sulla quale occorre decidere. E queste due vie, col prevalere del modello della scuola come soccorso sociale, sta condizionando e mortificando il ruolo che l'istruzione può svolgere per cambiare la società italiana. Un'interessante lettura della politica è quella offerta da Fabrizio Luisi, sceneggiatore e docente di comunicazione politica all'Università Yulm di Milano, in Maghi, guerrieri e guaritori, gli archetipi della politica italiana, pubblicata da Mondadori, 184 pagine, 18 euro. Qui Luisi parte da una necessità sempre più sentita dalla politica, quella cioè di esprimere un racconto, e dall'idea che nonostante tutto oggi la situazione non sia così drammatica come viene spesso dipinta. Per Luisi, infatti, esisterebbe una rinata passione collettiva per la politica e un'estrema rapidità della percezione delle trasformazioni sociali. E quindi il libro spiega come si fa il famigerato storytelling, così lo chiama lui, elenca gli archetipi della politica, ne applica i modelli ai principali modelli della politica e illustra le strategie di comunicazione narrativa che su questo si possono imbastire. Gli archetipi della politica illustrati dall'autore sono i seguenti: il sovrano, il guaritore, il saggio, il guerriero, il mago, il ribelle, l'uomo comune, l'innocente, il creatore, l'esploratore, l'amante, il giullare, e naturalmente divertitevi ad applicare un nome a ciascuno di questi archetipi. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. I campioni dello sport, le loro storie e gli autori che le hanno raccontate. Sono Dario Ricci e a luglio vi aspetto ogni domenica alle 16.30 e in podcast a Sfogliando Olimpia, la biblioteca dello sport, per leggere insieme i grandi libri della storia dello sport. Naturalmente qui su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parlavamo di politica, quella politica che una volta era considerata un'arte. E allora restiamo in tema parlando proprio di arte, con alcuni titoli che ci faranno accostare a vari periodi. Andando in ordine cronologico, vi comincio a segnalare un libro che ci parla di Leonardo, con Gianvico Melzi de Ril, In casa Melzi con Leonardo, 304 pagine, 22 euro, è pubblicato da Francesco Brioschi, editore. L'autore è un esponente della famiglia di cui Leonardo era stato ospite, aveva Prioridad nel palazzo tutto resistente, e famiglia che gli aveva dato uno dei più fedeli discepoli, Francesco, che di Leonardo fu anche esecutore testamentario. Ci viene illustrato il palazzo anche attraverso le immagini e ci vengono ricordati i segni del passaggio di Leonardo, di cui viene ricordata la vita e ricostruite le amicizie francesi, ma soprattutto si parla a lungo di Francesco, il cui rapporto con Leonardo viene così descritto in queste righe. Francesco provava nei confronti del maestro un profondo affetto che lo spinse ad accompagnarlo nei suoi numerosi viaggi. Così il loro rapporto, già cordiale, diventò ben presto più stretto di quello tra discepolo e docente, lo si potrebbe definire filiale. Mi pare di vederli nelle afose giornate estive, quando la vita a Milano diventava insopportabile, nel giardino di Vaprio alla ricerca di refrigerio. Leonardo si lamentava della confusione di Milano, delle persone che si affollano a modo di torme di capre e appestano ogni quartiere con il loro fetore, in particolare in estate. Eccolo quindi sulla riviera dell'Adda, magari proprio nell'angolo nord della terrazza che si affaccia sul fiume, dove anche noi di sera attendevamo l'arrivo dalle prealpi bergamasche della brezza più fresca, insieme al canto notturno degli usignoli del giardino. Il secondo libro di cui vi parlo è quello di un grande nome della letteratura francese, Alexandre Dumas, di cui esce Vita di Giulio Romano, curato da Vincenzo Fidomanzo, che è anche il traduttore. L'editore è Oligo, 44 pagine, 12 euro. Dumas aveva pubblicato nel 1862 due volumi di brevi biografie romanzate di grandi artisti italiani e fiamminghi. Tra queste, Una vita di Giulio Romano, ora riprodotta da un editore appunto di Mantova, cioè della città nella quale Romano ha lasciato alcune delle sue testimonianze artistiche più importanti. Dumas riprende naturalmente le vite del Vasari, ma dà di Romano un giudizio più critico, partendo dalla grande familiarità che il pittore aveva avuto con il divino Raffaello per gli affreschi, in particolare del quale aveva eseguito vari disegni. Poi, naturalmente, a questi affreschi il tocco supremo dopo i disegni lo dava Raffaello, pur lasciando all'allievo, osserva Dumas, una parte enorme di gloria, cosa che diede il via alla sua grande reputazione. Insomma, malgrado la sua incontestabile fecondità, scrive Dumas, Giulio Romano non è e non può essere un originale accanto al divino Sanzio. Il suo più grave difetto è quello di aver avuto per maestro Raffaello, di cui comunque fu considerato l'erede. Dopo i successi romani, Romano si spostò appunto a Mantova, dove fu accolto splendidamente. Tra l'altro fu Romano a presentare Benvenuto Cellini al duca di Mantova. Romano, conclude Dumas, si sarebbe confermato un grande pittore, non un grande poeta come il suo maestro. Anzi, aggiunge, tutto ciò che fece da solo trasuda noia. Addirittura la sala più famosa del Palazzo Te, quella dei giganti, è piuttosto grande che grandiosa, scrive Dumas. Ma Dumas riconosce pure a Romano di aver lasciato un segno che diede un grande lustro alla corte dei Gonzaga. E arriviamo al Novecento con due biografie romanzate. La prima riguarda il celebre Antonio Ligabue, che ispira Novita Amadei per Il cuore è una selva, pubblicato da Neri Pozza, 266 pagine, 18 euro. Qui il protagonista è il Matt, che riecheggia appunto Ligabue, un personaggio solitario, silenziosa. La voce in gola ce l'aveva solo per le bestie, scrive l'autrice. Con la gente, infatti, non aveva mai parlato se non parole a metà fra una lingua straniera e un verso di animale. Un tipo anche irascibile e perciò temuto dalla gente anche per le reazioni imprevedibili e spesso violente a qualunque contrattempo. All'istituto dove era stato ricoverato gli avevano fatto visitare il Museo di Storia Naturale, lì aveva imparato a riprodurre gli scheletri degli animali, viene favorito nella passione per il disegno, poi ruba delle vernici, comincia a dipingere e a modellare sculture con le argille, e il romanzo prosegue con la vita difficile del Rabonda per il protagonista, che coltiverà la sua passione, che gli dà da mangiare quando riesce per esempio a ottenere la commissione per preparare qualche insegna. Gli animali sono la sua passione e finita la guerra il Matt comincerà a farsi conoscere fuori dal paese, ma non rinuncerà alla sua libertà. Come spiega l'autrice, lo spunto del romanzo nasce appunto dalla curiosità di immaginare un matto di paese dalle origini incerte che si ritrova a fare il traduttore del presidio militare tedesco durante l'occupazione. Questo infatti capitò a Ligabue, che era nato in Svizzera e che parlava perfettamente tedesco. Restiamo in Emilia con uno dei maggiori artisti del Novecento, non solo italiano, quasi esattamente coetaneo di Ligabue, cioè Giorgio Morandi, su cui esce il libro di Luigi Magnani, Il mio Morandi, pubblicato da Ione Levi, 148 pagine. L'autore è un celebre saggista e musicologo scomparso nel 1984 che ha raccolto una celeberrima collezione artistica, oggi aperta al pubblico, alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetto, in provincia di Parma. Poco prima della scomparsa, Magnani aveva dedicato queste pagine all'amico pittore col quale l'autore aveva avuto una lunga frequentazione e altrettanto lunga corrispondenza, dalla quale emerge un Morandi particolarmente intimo e personale. Il libro è introdotto da Stefano Roffi, che racconta il rapporto tra i due straordinari personaggi, poi dà la parola a Magnani, che ripercorre il suo sodalizio con Morandi, per il quale scrive: arte e moralità furono quasi sinonimi. E di Morandi l'autore presenta le passioni e le preferenze. Dice Magnani: Morandi diffidava da tutto ciò che tendeva al decorativo, al retorico, al grandioso, al sentimentale. Non credeva alla fatalità dell'aspiration per l'incurezza formale che sovente le si accompagna. Tra i suoi maestri c'erano Giotto, Masaccio, Pio della Francesca, Bellini, Tiziano, Chardin, Corot, Berenoir, Rousseau, Cézanne. Riserbo manteneva nei confronti di Botticelli, silenzio su Michelangelo. Provava disdegno per Van Gogh e per Gauguin, questo peraltro condiviso da Cézanne. E poi nel libro troviamo appunto le lettere che si avviano nel 1942, lettere spesso quasi telegrafiche che danno il quadro di una vita appartata, abitudinaria, scandita anche dai ringraziamenti per l'uva che Magnani gli invia, fino alla scomparsa del pittore che Magnani così ricorda in queste righe. Come nell'espressione di un volto, l'occhio esperto coglie l'impronta dei più intimi sentimenti, così in un dipinto di Morandi i colori e le forme creati e modellati dalla luce, fusi in armoniosa unità, lasciano trasparire la vita delle cose, l'incanto di un paesaggio che l'artista ha fermato per sempre sulla tela. Visione unica e irripetibile, colta alla luce di un lampo fuggevole come il divenire della vita. Ideale compenetrazione tra esperienza sensibile e determinazione formale, in cui consiste la pregnanza simbolica dei colori e delle forme in Morandi. Alla sua vocazione artistica si accompagna sempre un particolare interesse per tutto quanto riguarda il materiale e le tecniche del proprio lavoro. Una cauta ma viva curiosità della natura dei colori, della loro fisicità e composizione chimica, che rasenta, sfiorandola, la pratica alchemica per un suo quasi religioso rispetto verso antiche formule empiriche e per la fede nella loro efficacia. Una di queste pratiche consisteva nel far essiccare un certo impasto di colori per poi macinarlo unitamente a qualche materia petrosa al fine di valersene per particolari effetti pittorici. E vien di immaginare lui, Morandi, in cui non vi era antitesi tra l'astratto e il concreto, tra pratica e teoria, tra apriorismo ed empirismo, intento ad operare come un antico. E conclude il libro Daniela Ferrari con un'analisi sulla critica morandiana dal 1918 al 1982. La seconda biografia romanzata riguarda un pittore assai meno appartato di Morandi e nonché recordman, almeno al momento, dei risultati d'asta, l'inglese David Hockney, il cui Portrait of an Artist è stato battuto, superando ogni record, nel 2018 da Christie's per 90 milioni di dollari. La scrittrice francese Catherine Cusset pubblica su di lui Una vita d'artista, David Hockney, 228 pagine, 17 euro, l'editore Guanda, la traduttrice Luciana Cisbani. Anche questo è un romanzo, dicevo, spiega l'autrice: quello che ho inventato sono i pensieri, i sentimenti, i dialoghi, anche se direi che ho fatto ricorso più all'intuito e alla deduzione che all'invenzione in senso stretto. E quindi incontreremo Hockney bambino, che manifesta subito la sua passione per il disegno, che riesce a coltivare studiando e cominciando a esporre le prime opere. David vive la propria omosessualità in anni ancora rigidi su questo punto, e poi l'esplodere della carriera, soprattutto dopo il trasferimento in California, dove troverà il primo grande amore, Peter, e avvierà il successo planetario che tutti noi ben conosciamo. E a questo punto Il confettino. Abbiamo parlato di arte, allora vi parlo del Louvre, che da poche settimane ha riaperto con due libri di Tanyo Matsumoto, I gatti del Louvre, che sono dei racconti a fumetti delle edizioni del Louvre tradotte da Valentina Vignola per edizioni J-Pop, 232 pagine, 20 euro, libri che saranno graditi a grandi e piccini che attraverso una colonia di gatti acquartierata al Louvre scopriranno di quel grande museo dei capolavori custoditi aspetti particolari e segreti. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Roberta Frisani, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.